per via celi portam manes et stella maris succurre cadenti surgere qui curat populo tuque genuisti natura mirante tuum sanctum genitore posterius Gabrielis amore sumens illudare peccatorum miserere.